con Sanpei pescavamo gay da 6000 kg e sei. Cercavo sballo con pollo dalle pendici dell'Olimpo, sull'asfalto di ospitaletto milioni e milioni di donne col cazzo. In gioventù pisciavo su Pikachu, mi pagava in contanti, correvo senza rimpianti a comprare droga e armi da chi? Da Moretti e Silvio Santi. Demetra offriva campi di ganja, si ballava a suon di samba e si sballava con la margia. Infanzia psicopatica e per persone cronica, i malanni di sti ragazzi ignoranti, sempre schiena contro schiena si fa molti più danni. La fonte di giovinezza è una mente porca, sto bene perché mangio frutta, già, tre ciliegi in ogni forza. Siamo bad boys, da noi non devi imparare, bad boys però continua a saltare fuori da quando non ci contennero, ma in fondo ci abbiamo il cuore tenero. Bad boys, da noi non devi imparare, bad boys però continua a saltare fuori da quando non ci contennero, ma in fondo ci abbiamo il cuore tenero. Sotto il naso. E non è un caso se pensi che è bravo, perché con l'ottantenne faccio storie sadomaso. Coi bambini gioco a pallone, mi vanto del mio nome di capocannoniere e faccio danni. Tiro bombe da 2 metri sul portiere d'8 anni. Totalmente incurante dei rischi. Ai semafori mando a fare il culo i camionisti. Scappo, ma non è ancora finita. So che al prossimo rosso rischierò ancora la vita. Come quella volta in fiera a San Faustino. La mia mano svolazzata a terra sopra il sederino di sta tipa bionda, campionessa di full contact. 1, 2, 3 fino all'infinito conta. I punti di sutura alla raccolta. Bad boys, prepariamo la folla alla rivolta. Siamo bad boys, da noi non devi imparare. Bad boys, però continua a saltare fuori da quando non ci contennero, ma in fondo ci abbiamo il cuore tenero. Bad boys, da noi non devi imparare. Bad boys, però continua a saltare fuori da quando non ci contennero, ma in fondo ci abbiamo il cuore tenero. Tipi strani, mandiamo a rotoli i tuoi piani. È negativo che ci sgani come un ago in un fienile. Quella sera avevo fatto il pieno di tequila, tutto altro che preso male. Tiravo patatina al butta fuori del locale. E tu? No amico, io non c'entro, è stato quello stronzo seduto là di dietro. E no scusa, quale? Come hai detto? Sì, l'ho sfigato all'altro tavolo e ancora sorseggiando mi godevo lo spettacolo. Miracolo! Zorba è diventato intelligente. Cazzo Neko, non dirlo ad alta voce che c'è gente che per fare i coglioni noi abbiamo tanto di patente. Siamo cattivi ragazzi dalla mente, marcia diabolica e inefficiente. Un cervello così ma un cuore tanto grande come quell'enorme acceggio che teniamo nelle mutande. Siamo bad boys, da noi non devi imparare. Bad boys però continua a saltare fuori da quando non ci contennero, ma in fondo ci abbiamo il cuore tenero. Bad boys, da noi non devi imparare. Bad boys però continua a saltare fuori da quando non ci contennero, ma in fondo ci abbiamo il cuore tenero.